one for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Whee! Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh, yeah. Whee! Bazinga. Bazinga. Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Ma oh, piano. No, e siccome è da tre settimane che non facciamo un bazinga, avevo questo me che è il consueto urlo mio di battaglia. Avevo l'urlo cominciato, il me cominciato. L'avevo arretrato, diciamo, più che cominciato da sì, più di tre sì. settimane. Non vedevo l'ora di farlo. No, ah, oggi infatti ha fatto moltissime prove Vincenzo a casa. Diceva, sì, ho fatto e dicevo, ma che è successo? Che cosa hai visto? Facevo le prove. È da tre settimane che la mattina, quando dopo lavarmi i denti, mi faccio i gargarismi col dicendo me e funziona alla grande, a giudicare dal mio acuto iniziale. E buonasera ragazzi, buonasera. Ben ritrovati su Bazinga. Ben ritrovati, inchia, sono contento, cioè volevo dire sì, sono contento senza inchia, togliete l'inchia. Bene. Ci dispiace di essere stati assenti in queste settimane. So che vi siamo mancati. So che soprattutto voi siete mancati a noi. Perché la notte piango. Perché so che c'ho dei bazinghi che mi aspettano in trasmissione. Sì, piangiamo soprattutto quando dobbiamo scrivere sul nostro gruppo ufficiale su Facebook. Se non l'avete fatto, mettete mi piace subito. E dobbiamo scrivere che il venerdì sera non facciamo bazinga e scriviamo: scusate ragazzi, ma questa sera non possiamo fare bazinga. È qualcosa di terribile. È una ragazzi, cosa vera, davvero terrificante. Non so se voi proprio sentite in sottofondo le vibrazioni. Ovviamente, come voi sapete, sono da poco finiti i comizi dei candidati, non so quali, soprattutto non mi interessa. Voglio dire, noi ovviamente come perché radio ricordiamo, come Radio Sisma e soprattutto come bazinga, non ci schieriamo da nessuna parte, se non per il programma, appunto il programma elettorale di Rocco Siffredi. Il Rocco Siffredi di Palermo, ovviamente, oppure, e tra l'altro siamo nel programma del fancazzismo totale. Sì, quindi il partito della patata è sicuramente il migliore. Diciamo il fancazzismo. Tu sei l'opposizione. Buonasera Roberto Anzalone. No, ragazzi, io sono l'opposizione perché io voto accetto la qualunque. Ah, accetto la qualunque. Noi abbiamo un pelo per tu. Rocco Siffredi è meglio secondo me. Infatti, no? tra Rocco Siffredi, eccetto la qualunque, chi vince secondo te? Proprio così. Un naturale Lupino, secondo te chi vince? Ce ne sono. Sì, ma Rocco Siffredi è un fautore, diciamo, del Lupino. L'apparato genitale che basta, però. Cioè, compa, abbiamo cominciato il programma da circa tre minuti e già abbiamo detto minchia, abbiamo detto apparato genitale, cioè probabilmente voi che avete ascoltato Radio Sisma in questo mesetto, diciamo, che non ci siamo stati, nulla di tutto questo è arrivato alle vostre candide orecchie puerili, non credo si possa usare. Devi dire una cosa, Vincenzo, anche scusami, due compa. Tu lo sai che tu voti l'articolo 1 della Costituzione, sai cosa dice? Sì, che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla patata. No, compa, questa la qui patata era non aspetta. È né di destra, aspetta, né di sinistra. Compa, perché è da tantissimo, volevo farlo, ridillo per favore, compa, ridillo. Quindi la patata. No, l'Italia, devi l'Italia dire. L'Italia è una repubblica fondata sulla patata. La patata non è. Tu non puoi sentirlo. Tu non puoi sentirlo perché non hai le cuffie, ma io ti ho appena messo il sed trombone, che è la cosa che ti contraddistingue quando facevi qua a radio con noi. Ed è questo. Viva la patata! Viva la patata, vabbè, robè. Già abbiamo parlato di patata, di Rocco Siffredi. Insomma, Fineiro e comizie, come osano rubare del tempo a Bazinga, ci dice Bartolomeo. E oltre comizie al suono della musica musica dei nomadi. Per non parlare di Roberto Anzalone, che sta scorreggiando come e parla di patate. Abbiamo anche il suono delle campane che hanno avuto la bellissima idea di riattivare proprio quando avevamo creato la radio qua sotto. Insomma, interessante. Grazie mille, amministrazione comunale. Se tu ci fai caso, se tutti votassero per la patata a quest'ora. Robè, per favore. Cioè, sì, nel senso che le donne in politica sono meglio degli uomini, vuoi dire? No, non è la non è solo le donne che devono entrare in politica, ma è la politica che deve andare dentro le come donne. Come questa qui è vecchia come il cucco, un sedio trombone ci sta sempre, certo. Come la morte praticamente. Benissimo, grazie Roberto per le tue continue illuminazioni ragazzi. Filosofiche. Ci fa sempre piacere, diciamo, le incursioni di Roberto Anzalone. Dove stai andando, te ne Roberto? Vai, compa. Vado a vedere le stronzate che dico qui fuori. Ma è finito il comizio, quindi non puoi sentire nulla. C'è il bis, c'è il tris e quadris. Sì, vabbè, poker. Lo sai che fai, Robè? Proprio se vuoi fare una cosa intelligentissima, vai nel locale lì di fronte, gli dai dei soldi, delle cose circolari così di metallo, gliene dai tre di quelle piccoline, e loro in cambio ti danno una bottiglia di vetro verde Heineken, che faccio pure pubblicità, con una birra. La porti qua, la stappi e la versi in questi bicchieri vuoti, che noi siamo tristi senza birra. Ma tu lo sai perché i comizi si fanno all'aperto? Perché cambia discorso così. Perché le minchiate volano, le minchiate. Grazie Roberto mille. Quindi, ti aspettiamo con la birra se tornerai. Se, come voi sapete, tutti. Guarda, se loro ti dicono. Vincenzo, sì. Tu mi dai tre voti, io ti porto la birra gratis. Sì, io gli do 8 voti. Grazie. Perché fondamentalmente, secondo me, te ne vai, compa. Ci salutiamo. Se ne va. Se ci fai un favore di chiudere quella finestra. Ah, chiudi la finestra, compa. Che fa di un fastidio esorbitante. Quella porta, perché c'è un rimbombo fastidioso. Non so perché, comunque. Sì. Benissimo, stavo dicendo, il voto di scambio, aveva accennato Roberto, noi siamo contenti del voto di scambio, dovrebbe essere anche legalizzato. Soprattutto perché, se c'è la birra di mezzo. Esatto, la cosa per più una importante. Birra io venderei l'anima, ve lo giuro, insomma, ovviamente sto scherzando, forse per due birre, per una solamente no. Molto probabilmente. Insomma, ora ci organizziamo un pochettino la serata, vediamo cosa fare, intanto io vi mando una canzone qualsiasi presa a caso, che è una che ho riscoperto questa sera, perché l'ho ricordata grazie al fatto che giocavo a FIFA 2004. Stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock, can't st and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Sì, sì, siamo tornati, siamo tornati. Che ci credo o no, siamo tornati. Guarda, avevo quasi dimenticato come fosse stare qui in radio proprio. Io pure, io pure. È passato troppo tempo, hai visto che siamo un po' scordinati. Troppo tempo, sì, no, lo sai anche, soprattutto perché non ho guardato il fatto che stava finendo la canzone. Sì, sì, e io nell'intento di pubblicare, diciamo, l'immagine di Bazinga su, appunto, il nostro... la nostra pagina Facebook Bazinga, mettete mi piace. Mettete mi piace, sono messaggi subliminali. Mi piace. Praticamente non ho visto che stava finendo la canzone, quindi siamo rimasti un po' di stucco, come si suol dire, come ci suggerirebbe il nostro amico Marco Fornici che ci sta ascoltando, la Poker Face. Poker Face, Poker Face. Intanto facciamo dei saluti ai nostri ascoltatori. Mi è arrivato un SMS, vediamo di chi è, probabilmente qualcuno che sta entrando alla radio, mi dice... Peppe mi ha cercato, quindi Peppe sta venendo in radio. Ragazzi, Peppe è una persona simpaticissima. Allora, volevo salutare Marco Meli, Flavia che ci ascolta. Forse questa qui è la terza volta che ci ascolta nella sua vita. Davide Qualcosa, Ongoing, a cui ho spiegato come funziona la tecnologia Radio Sisma. Spero di averti, spero di averti soddisfatto. Però poi ci ho ripensato, ma l'ho detto ugualmente. Quindi, se hai qualche altro dubbio, puoi sempre domandare. Poi mi è un Robin Prenson, che penso sia un bot. Mi ha mandato Hot Sexy Girl un link, non so per quale motivo. Saluto Bartolamico, saluto Giovo, Giovanni, che è da qualche settimana che siamo tra l'altro pure amici su Facebook, e questo mi riempie di gioia, grazie alla radio, quindi ho avuto anche altri amici virtuali, e questo è simpaticissimo. Poi saluto anche Giulia che si è qui, basta salutare. Torniamo alle... Guarda, mi sono accorto di una cosa tremenda. Che è successo? Che Radio Sisma ha pubblicato l'orario del nostro programma per le 19. E quindi, ragazzi, mi dispiace molto, ma evidentemente quest'area di politica ci ha portato, diciamo, non tante belle cose. Ci ha sconvolto sì, ci ha sconvolto abbastanza. Appunto, è una cosa vergognosa. Tu pensi che c'erano impazzendo? In questo momento significa che c'erano ascoltatori dalle 19 che hanno ascoltato i comizi pensando che fosse Bazinga. Guarda, venerdì 27 aprile, ore 19. Ore 19. Errore. Oddio, senti. Vabbè, la cosa brutta è, cioè, alla fine magari avranno pensato che stessimo scherzando, perché noi siamo, diciamo, grosso modo abituati a fare trolling pesante mandando in onda roba che non dovrebbe essere mandata in onda, e forse hanno pensato che da due ore stavamo prendendo per il culo tutti, mandando dei comizi dove certa gente litigava con altra gente che ha parlato prima di loro in differita. Insomma, una cosa orribile, i comizi. Gabriele, questa qui è la prima volta invece che tu guardi dei comizi in un piccolo paesino come il nostro, Santa Margherita. Ma non ricordo. È vero? Sì. No, nel senso che la prima volta che partecipi attivamente, partecipo attivamente alla vita politica, alla vita come politica. Tutti voi sapete, io voto per Rocco Siffredi. Votiamo Rocco Siffredi. Adesso andiamo a guardare questo particolare, diciamo. Voi lo ascolterete, spazio. Noi lo guardiamo. Minchia. What's minchia mean? Baby, don't disturb me. Mi sto preparando per l'elezione a Palermo. Capito. Un travaglio. Un travaglio voglio per tutti. Ma A Moniz. La monnezza. Non ne ammettemmo sta monnezza. Ammettemmo. Siete pronti? Sto arrivando. Questa qui è una minaccia. È Rocco Siffredi che ci parla, è qui ospite in studio. È una minaccia. Devi farlo, devi aggiungere tra gli spettatori di Radio Sisma anche una foto di Rocco Siffredi. Insomma, sarebbe consono ai nostri album, che a quanto pare sono molto piacioni. Molto piacioni. Vabbè, meglio che me smetto di sparare cazzate per il momento. Va bene. E vi sparo. Mi sembra che sia il caso. Guarda, ci siamo ritrovati veramente, ragazzi, con le poche face oggi, perché esatto. Qui sbaglio io qui a pubblicare i link e sbaglio a rispondere anche su Twitter, su Facebook, nonostante tempo fa ci fossero miliardi di persone che mi chiedevano tutti fammi questa canzone, mandami questa e salutami a Ugino. Adesso non riesce ad essere adesso, multitasking, nonostante non ci sia nessuno, io non riesco a essere multitasking, sono proprio monotasking, un processo alla volta. Stai tranquilla. Quindi per ora ci fermiamo e come ci suggeriscono anche i 99 boss. Sì. Ce l'abbiamo fatta in tempo. Siamo tornati. No, ancora ci sono i rintocchi. Aspetta. Del quarto d'ora. Sono due e sono tre. Quindi sono le 22:45. Hai visto? No, è 47. Quindi no, è sbagliato indietro orologio. Di due minuti. No, sai perché? Perché comincia e poi parte e va per due minuti. Quindi è in ritardo due minuti. Perché quindi ritardando per due minuti per qualche 60 giorno, minuti, eccetera. Per qualche giorno, ma indietro dire... di un'ora. Di un'ora nel giro di 77 giorni. Tu, e quindi negli anni bisestili. Quindi. Giusto. Gli anni bisestili muore, ovviamente. Certo, certo, questo senza dubbio. Diciamo che è un ragionamento molto logico. Anna Love My Cat da Twitter dice che ci ascolta e dice: certissimo, vi ascolto, leggi il tweet. La salutiamo, che ti ho scritto. Ti mandiamo un bacio anche. Adesso avete un nuovo ascoltatore che è Gianluigi Cioffi, che è il ragazzo. E salutiamo anche lui. Salutiamo Gianluigi Cioffi. E poi Anna Love My Cat, noi ti vogliamo chiedere di diciamo tradurci tutte le canzoni dei 99 Boss in italiano corrente o magari in latino se possibile. Nel frattempo io saluto anche altri ascoltatori che mi parlano in questo momento: Calogero Calandra, Angela Graffagnino, Maria Cristina Orlando e poi Giulia, Peppe Alesi, che è un grande nostro ascoltatore. E inoltre c'è anche Santina X, perché Santina, il cognome non lo vuole Palumbo, non lo vuole detto il cognome in radio, aggiungetela su Facebook. Non dobbiamo dirlo assolutamente che è Palumbo, giusto? Provateci con lei perché è una ragazza, non è disponibile, però è in questo momento Santina, è schietta. Palumbo, cercatela su Facebook. Cercatela su Facebook, aggiungetela perché così magari può trovare un ragazzo. No, ovviamente sto scherzando. No, che c'è. Mi ha detto finito. Ovviamente adesso cambierà cognome si chiamerà Rossi. Da Palumbo. Santina Rossi. Santina Palumbo. ricordate su Facebook Palumbo Santina. Ovviamente sto scherzando. C'è anche Mussomeli. Anna Love My Cat, che credo sia pure schietta, ovvero in siciliano Schiat. Come si dice, come si dice schietta in napoletano? In napoletano. Anna, sarebbe, facci sapere. Sarebbe non sposata o non fidanzata. Esatto. Ovviamente se ce lo fai sapere noi saremo contenti. Scapola, diciamo. Come si dice scapola in napoletano? Come si dice scapole? Scapole, come si dice? Scapole, voglio. E anche Alfonso ci ascolta con 8D sarebbe la faccina con gli occhiali, ma tu non hai gli occhiali, quindi sei fantastico, triste. Fantastico, questa faccina è bellissima, da ora in poi la uso anch'io, Alfonso. Sempre. Capitan Jack Sparrow, il mio amico Manuel, ci ascolta anche lui. Va bene, bene, hai visto, stiamo cominciando a crescere di nuovo, esponenzialmente. Che cosa è successo? Sì, va bene, va benissimo la puntata. Sì, vedi? Stavo controllando il numero di ascoltatori. Sono, che sono 132.000. Imponente, diciamo. Come faceva quella di Strotus. Non posso fare a meno di notare che c'è un IP che proviene dal Veneto, quindi non so chi sia dal Veneto. Qualcuno dal Veneto. Può essere che dal Veneto sia Maria Aurora, non lo so. Dal Veneto, facci sapere di dove sei. Alfonso mi ha detto che 8D è sì che li ho, ho gli occhiali da sole di sera nella mia stanza. Bellissimo. Spero anche che hai la luce spenta, perché non ti servono gli occhi per ascoltarci, Alfonso. È inquietante. Mi ha detto: ma fa figo avere gli occhiali da sole. È bellissimo. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Diceva un nostro grande amico e ascoltatore, Franco Battiato, che sicuramente ci starà ascoltando. Da noi si fa chiamare Franco. Lo zio Franco ci ascolta. Lo zio Franco ci ascolta. Quello dice, senza dubbio. A meno che non siano pieni gli alberghi a Tunisi, ci ascolta. Sì, smettiamolo di fare. Adesso sì, che la mia giornata ha un senso con Vicchio 88 e Radio Sisma. Che sono ruffianazza, dice Flavia. Hai visto che bello? Ricevere questi tweet mi eccitano un poco. Non eccita nel senso sessuale, mi eccita nel senso. Che stai facendo lì con la mano? No, niente, tranquillo. Che fai con la mano? Apposta. Vince, evita, dai. Mettete dai. Pure una canzone delle mie, come dice Salvatore. Salvatore è un riferimento a una persona che non ci sta ascoltando, quindi non possiamo accettarlo. Però la metteremo sicuramente una canzone delle sue o delle tue. Ci farebbe tue. Piacere che ci ascoltasse. Salvatore. Perché io gli ho inviato l'SMS, il famoso SMS sì, che invio ogni venerdì per rompere un po' il cazzo alle persone. Non ti ascolterà mai. Avevo scritto: ebbene sì, siamo anche noi vittima degli stratagemmi attuati dalla lobby dei politici. Ci derubano dell'ora del palinsesto radiofonico. Ci rubano il lavoro! Per parlare di cose serie e costruttive per il paese, bla bla bla. Ribelliamoci alla politica odierna. Diciamo basta, uniti per basta. Un obiettivo comune. Il fancazzismo. Il fancazzismo. Che è ciò che più che ci riesce meglio. Allora vota e fai votare. Vabbè, allora ascolta Bazinga su radiosisma.it dalle ore 22, che doveva essere dalle ore 22, ma evidentemente questa sera con i comizi, che è il nostro amatissimo paese, Santa Margherita di Belice, È slittato, abbiamo, diciamo, esatto, è slittato, siamo un po' in ritardo. E vabbè, ma noi ci accontentiamo lo stesso, i nostri ascoltatori ci sono, noi siamo contenti. Gabriele ha un metodo infallibile per contattarvi ed è quello degli SMS, ma c'era gente che prima, piuttosto che mandare SMS, usava altri metodi come i Police. Sì, no, questo qui no, adesso sì. Siamo tornati in studio dopo questa bellissima canzone che descriveva, diciamo, i modi con cui gli antichi comunicavano, ovvero non avendo gli SMS mandavano i messaggi nelle bottiglie. Sting parla questo, infatti Sting è un professore di storia famosissimo e lo fa proprio per questo, non per altro. Allora dice, io mi aggrego, Flavia dice, io mi aggrego a Vicchio 88 con il suo Schetta da buona siciliana. Schetta è più figo di buona... Ah, mi hanno detto, Gabriele, ho dimenticato di dirti che dopo un breve consulto, dice Anna Love My Cat, dopo un breve consulto io e Gianluigi Cioffi possiamo affermare che una donna non sposata si dice signorin. Non so se la pronuncia sia corretta. Ma sembra più veneto. Signorin, ecco, waiò. Devi dire waiò. Signorin, waiò. Signorin, waiò, a pizza, bella Napoli. Che se no non è napoletano. O pomarone. E io pago. No, no, quello è tutto. Comunque, signorin sa più di veneto, no? Sa più di veneziano. Signorin. Il nostro ascoltatore veneziano. Allora era Anna Love My Cat che si spaccia per una napoletana. In realtà è veneziana, perché sappiamo pure il tuo IP, sì, che è 2.139.319.235. Quindi onnate o distruggete il computer di Anna Love My Cat e scaricate tutte le sue foto porno nell'hard disk. Benissimo, benissimo. Salutiamo Giulia, perché non so che cosa vuol dire questo Blacky Pretty. Blacky Pretty, Giulia, ah, Carlana. Me l'avevo spiegato ma non lo ricordo. Forse era qualcosa che aveva a che fare col mondo degli anime o dei manga. Che mi dice mettiti in pace con te, frate. Son connessa. E anche Picchio Picci, volevo salutare, che è un grandissimo spammatore del nostro programma. Ha scritto: vota e fai votare il fancazzismo su Radio Sisma. Grande. Io gli voglio un bene dell'anima. Ti devo ancora un caffè, compa. Bello, bellissimo, favoloso. Lucio VIP è la cosa più emozionante che ci è capitata negli ultimi anni. Bellissimo. Salutiamo anche Lorena che ci ascolta. E salutiamo Nuccio VIP che ci ascolta sicuramente. Sì, Angelo Duro che sarà ospite, che io amo. Qui, sarà ospite qui in studio. Quindi non mancate nelle prossime puntate. Santina ci ha comunicato che vuole una canzone. Ci ha comunicato che vuole una canzone, Girls Gone Wild di Madonna. Questo Girls Gone Wild mi ricorda tantissimo. Io sono un cultore del porno, ma non per a livello, diciamo, di porno per scopi autoerotici. Io sono un cultore del porno perché mi piace il genere, le ambientazioni e le musiche sottofondo sono meravigliose. Appunto, cioè, questo io ovviamente soprattutto le storie che sono molto profonde. Girls Gone Wild, diciamo, in tutti i sensi. Sì, Girls Gone Wild è un programma americano dove dei ragazzi con delle telecamere intervistano delle ragazze ubriache e gli dicono di farsi vedere le tette. È una cosa del genere, se non sbaglio, vero? Sì, io l'avevo visto qualche volta, così per caso, perché me l'avevo linkato, non me la sono andato a cercare, ve lo giuro. La cosa scioccante di questa storia che vi stavo accennando è... di questo mio, diciamo, difendermi, è una cosa che ho sentito realmente nella puntata di oggi di Forum. Praticamente stamattina ho avuto un esame, appena, che è andato male tra l'altro, se vi interessa. Appena sono tornato a casa ho acceso, alle 10:30 c'era Forum e c'era un tizio, Gabriele, che tu questa non la sai, era Schetto, questo tizio era Schetto, era signorin, erano tutte e due signorin. Praticamente che succede, sto tizio e il suo coinquilino abitavano ovviamente nello stesso paese, nella stessa città, erano tutti e due studenti universitari. Il ragazzo più fisicamente, ovvero quello più muscoloso, per arrotondare aveva fatto un film porno e si era fatto pagare 8.000 euro. Praticamente l'aveva detto in confidenza a quest'altro ragazzo e lui affermava di essere un cultore del porno perché gli piacevano le ambientazioni e le musiche di sottofondo. Tu immagina tipo le risate che c'erano in studio in quel frangente. Parlava di questo, eccetera eccetera, il fatto che lui si era scaricato il suo film e l'aveva linkato a tutti gli amici su Facebook dicendo guardate tizio che faceva. Fantastico. E lui l'ha denunciato per violazione della privacy. Alla fine non ha potuto fare niente perché lui aveva firmato un contratto dove cedeva la sua immagine al coso del porno, lui l'aveva comprato, quindi alla fine si è salvato, diciamo, non ha subito nulla. Mamma mia. Tu immagina cosa del genere, essere obbligato, diciamo, per scopi monetari a fare un film porno e che tutti lo vengono a scoprire. È una cosa davvero brutta. Soprattutto la cosa più brutta era il fatto che quel tizio si difendeva a spada tratta dicendo qualsiasi proprio riferimento fallico è puramente casuale. Ammazza tratta diciamo più qualsiasi riferimento fallico è puramente casuale. No, stavo certo. Dicendo si difendeva a fallo tratto, insomma, dicendo che lui ama dildo. Che lui ama le ambientazioni e le musiche dei film porno, che sono una cosa dildo, sì, sono una cosa, sono una cosa davvero scioccante. Lo devo scioccante. Dildo per forza. Quindi accontentiamo la nostra ascoltatrice Santina. Io non l'ho mai sentita questa canzone di Madonna. Madonna, so che è gay friendly, quindi io non l'ho mai ascoltato in generale. Dici? C'è Gianluigi che ci dice che oltre a la Sket, campana. La campana fantastica, sì, sempre. Tranquilla. Oltre a Schetta oppure Signorin, si può dire anche Zitel. Zitel. Oh my god, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all because I love thee and I want so badly to be good. Good, good. Bazinga! Bazinga! Sì, è finito. Era partita un'altra canzone, come sempre, perché io sono lento, sono lentissimo a tagliare i pezzi. Mi chiedo cosa c'è di meglio del jingle Bazinga. Ah, quello senza dubbio fantastico. È la migliore. Ora, Flavia dice, non so a voi, ma a me Schetta sa più di donna sola isterica che di non sposata. Hai ragione, perché solitamente, lo sai quando è che si dice che Schetta in siciliano significa donna sola isterica? Quando dici Schetta vecchia, che non significa che è una persona anziana che non è sposata, significa che è da parecchio tempo che è Schetta, quando è Schetta vecchia. Quindi da parecchio tempo che, diciamo, non frequenta ambienti alla Rocco Siffredi. Siffredi. Esatto, esatto. Si ritorna sempre a parlare del nostro amato Rocco Siffredi. Perché tu devi leggere, sì, capito? Che cosa? Sì, il partito della patata, ragazzi. Per l'elezione del 2012 al Comune di Palermo vota me, scrive Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, sindaco per Palermo. Se dovete farvi fottere anche per queste elezioni, abbiate almeno il buon senso di votare chi lo fa con passione da anni. Questo merita un applauso non indifferente. Grazie Rocco, grazie Rocco. Poi cosa c'è? Quando il gioco si fa duro, vota Rocco semplicemente. Modifiche ai calendari delle elezioni universitarie con l'aggiunta dell'ora di darla. E poi, vabbè, manifesta il tuo dissenso. Meno preservativi sui prati ed apertura delle case chiuse. Rispettiamo quindi l'ambiente. E poi ce n'è altre. Contro il problema del traffico, più carriole. E poi c'è poi che questa di Palermo, questa per Palermo è bellissima, perché tutti quei delinquenti che ci sono nelle strade sicure, e c'è una ragazza, una pornoattrice, diciamo, una pornoattrice con due pistole in mano, e poi c'è scritto lavoro facile, mano destra, e c'è la mano la mano, e poi scegli tu davanti o dietro. Oppure e poi più notti bianche e meno notti in bianco. Erezioni 2012, vota Rock. E poi ce n'è altre. I miei valori in basso al centro. Eppure altre. C'è futuro a questo Palermo. Questo è meraviglioso e merita un applauso. Questo è bellissimo. C'è futuro a Palermo. Io dietro a tutti i cittadini. Grazie Rock, grazie Rock. La cosa, diciamo, vota e fai votare il Rocco Siffredi. La cosa a dir poco scioccante del fatto è che c'è gente che ci ha creduto sul serio, ovvero che hanno dovuto fare delle smentite ufficiali anche. Cos'è questo rumore? Ah, cioè forse ci sono di nuovo comizi, non mi interessa. Insomma, hanno, diciamo, dovuto fare delle smentite ufficiali. Il Fatto Quotidiano pubblica un articolo, dice Rocco Siffredi, sindaco di Palermo. Ma è vero? Di questo articolo di Dino Amenduni. Amenduni, sì, non Amenduni, lo conosco. Amenduni. Sembra un nome inventato. Inventato sul momento. Amenduni. Un Amenduni qualsiasi. Sì, Nino Amenduni, per non dire Mario Rossi, dice esatto. Complimenti, volevo fare i complimenti a chi ha creato la campagna di comunicazione per la finta candidatura di Rocco Siffredi. La pagina di Facebook è facebook.com/Rocco Siffredi sindaco di Palermo elezioni 2012. Andate a guardarla perché davvero merita. E diceva, non so quanta consapevolezza ci fosse nelle scelte fatte, ma questa provocazione riesce a colpire nel centro almeno per due motivi. Il primo è la scelta perfetta del contesto, perché ci ricorda che in tantissimi comuni italiani, quest'anno ci sono ovviamente le elezioni come tutti gli anni, in parecchi comuni, e in tanti comuni grandi, come c'era, se non sbaglio, Taranto, c'era una pornattrice, a Monza c'era Moana Pozzi o non so chi, un'altra, insomma, è una cosa scioccante. Allora si sono inventati questa cosa. No, Milli d'Abbraccio, c'era Milli d'Abbraccio, sì. Perché forse Moana Pozzi è morta, non so se sbaglio. Sì, è morta. Quindi mi sembra il conto improbabile, più improbabile la candidatura di a sindaco di Rocco Siffredi. Ci sono le solite, i soliti lapsus freudiani. Sì, freudiani. Dicevo, questo qui si è dovuto inventare questa smentita, perché proprio il fatto che doveva chiedere, cioè la gente chiedeva in giro se fosse vero, forse perché voleva votarlo. Abbiamo altre due interaction. Picchio dice, in realtà schietta in palermitano vuol dire senza formaggio, pane, came o saschetta. Ma quello è un'altra cosa, non è formaggio, è ricotta salata. Schietta perché came o saschetta? Pane, perché came o saschetta, che sarebbe il panino non la milza. Non si è sposato, diciamo, con l'abito, sarebbe il bianco. Il parmigiano sarebbe, oppure no, la cipolla, la ricotta salata, la grattugiata salata, sopra. Vabbè, ci sta il parmigiano, la cipolla, insomma, non sono palermitano, quindi non posso dire nulla. E intanto salutiamo Leda, Nello, e poi salutiamo c'è un'altra interaction bellissima, c'è Flavia che dice la cosa spettacolare è che non posso mettere le cuffie perché mi scoccia, sono lontana, immagino, dalla tua postazione. Dice, i miei staranno pensando che stai ascoltando una radio porno, quindi tranquilla. No, abbatteremo. Vota e fai votare Rocco Siffredi. Flavia, fai votare Rocco Siffredi. Flavia, guarda i porno. Sta guardando un porno. No, poveraccio, mi schifo. Ai. Allora, vabbè, per farci perdonare, Flavia, ti dedico questa bellissima canzone che era partita poco fa. E sono i Killers con Mr. Brightside. My stomach is sick, and it's all in my head, but she's touching his chest. questa volta ci sono riuscito. Hai visto? Non so se hai notato. Questa volta ci sono riuscito. Sì, però non hai detto me. Oh, no, scusa, a me. Ah, ecco, hai visto? Sì, sì, sì, si capisce, si capisce. Mi hanno appena, allora, intanto fanno il... Ah, no, questo qui non c'entra nulla. Mi è arrivato un interaction, ma non c'entra nulla col programma. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Intanto volevo salutare il mio collega Shisho Jenna che ci sta ascoltando. Ciao, Shisho Jenna. Ciao, Shisho Jenna. Anche mio fratello ti conosce. Controlli automatici. Controlli automatici. Oggi abbiamo fatto... Oggi nell'esame io avevo... Tu non l'hai vista, la professoressa mi ha dato un foglio con due esercizi. In realtà ce n'erano quattro. E io l'altro foglio, gli altri due esercizi, l'ho avuto nell'ultima mezz'ora. Quindi mi sono incazzato non poco per questo motivo, perché ho dovuto fare, diciamo, i salti mortali. Giuseppe Barbera, che ci saluta, anche lui, che voglio dire che salutiamo, dice: mettiamo musica decente. Sì, musica decente sarebbe musica house, compa. Ti piaceva Madonna poco fa? E vabbè, compa, se ti piace Madonna, ti consiglio di ascoltarti radiogay.tv e poi guardare in giro, ci sarà qualcosa del genere in maggio, spero, insomma. E sta ancora continuando a scrivere, forse si è ritirato, ora non scrive più. Ciccio dice: ah, mi fai morire, compa. Io lo so quanto ti faccio morire, compa. Noi abbiamo, io e Ciccio abbiamo un rapporto, un diciamo, rapporto che va oltre l'amicizia. No, perché? No. Dai, Ciccio, dilla la verità, Ciccio. No, non ci sono arrivati, non ci siamo arrivati, Ciccio, ancora, ma lo spero che presto. Ah, vabbè, Ciccio, ma che fai con mio fratello? Ma che cacchio mi fai dire? Dai, basta, meglio evitare di dire cretinate. Mi arrivava... Aggiungetelo su Facebook, Ciccio Jenna. Ciccio Jenna, aggiungetelo, ed è schetto anche lui. Aggiungete Ciccio Jenna. E signorin. Ah, Ado Gulotta ci ascolta anche dall'Inghilterra, se non sbaglio, vero Adua? Dice: i Killers ci stanno di brutto, ciao guys. Che guys. Quindi salutiamo anche Adua. No, guys, era con la A, guys. Tu non c'eri quando... Quello era per te, Ciccio Jenna. Tu non c'eri quando, forse ancora neanche esisteva Wikipedia, prima di Bazinga, il programma precedente, abbiamo fatto con Rosario, una volta Roberto, che era in studio con noi, ha dato Bobetto, che è venuto qua all'inizio Bobetto della puntata, Zalone, che ha dato le coordinate di casa di Adua. Adua, non so se ti ricordi, è stata una cosa scioccante, perché poi c'era Ivan che lo voleva uccidere, che sarebbe il ragazzo di Adua. Insomma, è una cosa meravigliosa quello che succede in questa Vabbè, radio. Ma io sono così, capito? Tu capito? devi capire. Anche se Roberto non c'è, dobbiamo ricordare che anche Roberto è schetto. Noi siamo più che un programma... Sono schetto, quindi se volete aggiungermi, Bobetto Azzalone su Facebook. Più che un programma di radio, siamo un programma, diciamo, di incontri, quindi stiamo cercando di mettere assieme i nostri ascoltatori, così poi ai loro figli racconteranno dove siete conosciuti in un programma radio, noi rimarremo nella storia dell'universo, insomma, bellissimo. Saluto Leda, che poco fa si è offesa perché non l'ho salutata, quindi peccato, ciao Leda. Peccato. Giuseppe Barbera ha detto che si piscia, ma vai in bagno, non so se ti pisciavi in senso non di... Non lo so, usa il tena lady, non lo so. Oppure se hai una bottiglia di birra al lato, so che i normodotati potrebbero anche utilizzarla come un bagno, diciamo, i normodotati, perché io ovviamente non posso. Ma basta parlare di porno, per dai, favore. Dai, parliamo sempre di queste cose. Basta. Un altro argomento che mi era venuto in mente... È il partito di Rocco Siffredi. No, basta. Un altro argomento che mi era venuto in mente era il fatto che Twitter... allora, intanto... Da quando internet, Facebook, il social networking ha sbancato, diciamo che tutti stanno più su internet che guardare la TV, la TV ovviamente aveva distrutto, diciamo, la TV aveva perso moltissimi ascoltatori, moltissimi telespettatori. Questo fatto si è, diciamo, in un certo qual modo ribaltato negli ultimi tempi, da quando Twitter è diventato un trend, da quando Twitter è diventato una moda. Dai, ragazzi, è successo, Twitter è fantastico, è successa una cosa meravigliosa, ovvero un altro fenomeno, si chiama il fenomeno della social TV, ovvero praticamente che succede su Twitter: la gente usa gli hashtag, non so se voi siete su Twitter, insomma, lo dico per tutti, sono, diciamo, un'unità elementare dell'informazione, si usa il cancelletto o una parola, e questo qui serve per discutere. Tu vedi tutte le persone che in questo momento stanno discutendo di questo argomento. Ieri notte c'era cancelletto mistero, che è andato in orbita praticamente questo trend, questa discussione top trend. Tutti parlavano di mistero ieri notte. È stata una cosa orribile, perché io ero il giorno prima dell'esame, io volevo andarmi a coricare o di farmi due risate leggendo la timeline, e tutti parlavano di Mistero. Tutti. E Mistero di per sé non è che sia un programma così tanto intelligente, tra l'altro. Vabbè. È un programma stupido, ma di una stupidezza paurosa. Perché c'è chi piace. Oltre a non fare ridere assolutamente, secondo me, oltre a non fare spaventare, vuol dire ridere, però. Oltre a non fare spaventare, far ridere. Visto? Mi sono impappinato, però era quello che volevo dire. Che cosa sappiamo? Insomma, del Mistero. Forse non c'è più lui. Ora Giulia mi diceva, devi seguire la pagina che parla delle frasi storpiate da Raz Degan, che è una cosa esorbitante, diciamo che ora ti accontenteremo prossimamente, però prima di tutto volevo mandare aspetta. Sì? È fantastico, c'è praticamente sulla pagina di Bazinga, quando Adua Gulotta ha scritto "Hey, the Killers ci stanno di brutto, ciao guys", praticamente ci sono commenti che riguardanti quello che noi dicevamo, e sembra, se tu lo vai a guardare domani magari, sembra che lei è pazza e parla da scrive ciao, non lo sapevo. Poi c'è un'altra risata, un minuto di silenzio e ciao Bobetto, guarda che Bobetto non c'è, sono io che lo imito. Un altro saluto a Adua Gulotta. Ora, visto che io mando sempre canzoni, diciamo, americo-inglesi, americane o inglesi, questa volta accontento i nostri ascoltatori che amano la buona musica italiana e mando i Subsonica con questo bellissimo pezzo. Suono della musica che piace a lei, la solitudine che non sei più normale. Forse ci sono riuscita. No, non la sentite. Questo mi autospoiler sempre. Vabbè, no, non la sentite. Il mio coinquilino è rimasto scioccato stamattina per la musica che c'era. Quale musica? Non so di cosa tu stia parlando, Giuseppe. Sì, più chiaro. Dici forse per la musica questa qui. Questa qui era Aurora Sogna dei Subsonica. Quindi non rimanere scioccato, non è nulla di così allucinante. Gabriele, che cosa dovevi cosa dovevi leggere? Era una cosa particolarmente interessante. Parlavamo di mistero e quindi ho qua qualcosa di pronto, bellissima. Ascoltate il No, lei no, l'ho tolto. Difatti, per permetterti, sei tipo grandissimo. Sì. Parlavamo appunto di mistero, e quindi possiamo benissimo leggere sulla pagina in enciclopedia, diciamo, le come si dice? Le frasi, diciamo, ipse dixit che vengono dette a mistero. C'è questa: cos'è un mistero? La luna piena nel cielo. O forse la nostra stessa vita. Cazzo ne so. Che Raz Degan, nella sua impeccabile conduzione, mistero. Enrico Ruggeri, su come si sia ridotto a presentare certi programmi, infatti è un mistero. Mistero è quindi un atto di quei programmi pseudoscientifici che in Italia spuntano come funghi. Mistero è un programma di Mediaset liberamente ispirato, ma solo un poco, proprio appena appena, a Voyager, che è la spassosa trasmissione comica di Rai 2, che ancora lasciano più fare a Giacobbo, cioè, per non davvero affidargli la guardare, guardare la TV, guardare la TV è simpatico, però leggere i commenti della gente su Twitter riguardo alla TV, riguardo ai programmi in TV, è qualcosa di allucinante. Io ho visto le dimissioni di Berlusconi, tutte le puntate, diciamo, di serie TV in diretta, ed è una cosa allucinante. Scusa Gabriele, continua pure. Allora, come stavo dicendo, la grande differenza tra i due show, tra Voyager, ci stava. Hai visto, ci sta sempre questa. Ci sta sempre l'aria sulla quarta corda, perché mi permette di parlare in una certa maniera. La grande differenza tra i due show, cioè tra Voyager e Mistero, è che appartenendo l'uno a una grande azienda mediatica ipercapitalista e l'altro a un'associazione a delinquere dello Stato, notoriamente più ingenuotta e meno pornomane, Mistero ha una impostazione molto più artistica. Il conduttore, infatti, lancia i servizi sulla testa dei malcapitati da un cimitero pieno di sassi e di pietruzze che non significano niente, ma fanno molto mistero, appunto. Inoltre, per la soddisfazione di tutti gli spettatori di Studio Aperto, grandi estimatori di culi e tette, c'è una bella signorina che borbotta discorsi vuoti spacciandoli per perle di saggezza e, che cosa più importante, è mezza nuda. Questa donna è l'oracolo del mistero, un nome che non ha senso, che fa molto mistero, infatti. In Voyager invece tutto il fascino della trasmissione è irradiato da Giacobbo, o al massimo da una sensualissima Fiat 500 dorata e dalle curve eccitanti. Sì. grazie mille sempre, come sempre, grazie Pubblico e Studio. Dico, come sempre, sei molto pronto ad accogliere le stronzate che ti linko. Questo è fantastico. Benissimo. È davvero bello. Qui ho trovato una bellissima parodia fatta da ragazzi. Soliti Sospetti Tube, si chiama il canale di YouTube. Vediamo cos'è, lo guardiamo assieme per la prima volta. Se si carica. No, si carica. Clistero. Clistero, poi c'è scritto la trasmissione, la parodia di Mistero condotta a Katz de Can. Vediamo. Benvenuti a Mistero. Perché tutto è un mistero? Questo sarebbe cazzo da cane. Spacco bottiglie, ammazzo famiglia. Spacco bottiglie. Mistero del cosmo. Mistero della vita. Mistero della fede. Il mistero della mente. E perché i miei vestiti cambiano ogni inquadratura? È vero. Nel prossimo filmato vedremo quella sottile linea di confine fra vita e morte. Spacco bottiglie e ammazzo famiglia. Allora, ci troviamo in una casa abbandonata dove ci hanno riferito che ci sono dei suoni inquietanti che provengono da tutte le stanze circostanti. Allora, questo è un microfono che capta delle lunghezze d'onda che normalmente l'orecchio umano non può percepire. Adesso registreremo 10 secondi e vedremo se poi con i nostri strumenti riusciremo a captare i suoni che ci hanno riferito. Allora, pronti? Pronti? Scusate, avevo pigiato play, devo pigiare rec. Pronti allora? Silenzio subito. Thank you. Abbiamo effettuato delle riprese in questa casa abbandonata. Effettivamente abbiamo avuto conferma che questi suoni erano presenti. Andiamo ad ascoltarli. Ma di cosa parla? Non ho più idea. Ascoltiamoli. Ah, bellissimi suoni. Suoni fantastici. Sono, vuol dire che c'è, diciamo, vita. Qua stiamo scemando. C'è vita in quella casa, nello spazio. In quella casa, sì. Io sto noto che stiamo scemando nel cinepanettone. Ma quando mai non mi ha detto... è fantastico. Quando mai non abbiamo scemato nel cinepanettone? Cioè... Mi dicevano linka il video. Ora lo linko su Twitter, automaticamente si linkerà. Allora metto il video, poi metto la freccetta su Radio Sisma, gli metto pure la cosa, proprio bello, deve essere una cosa sistemata, http://radiosisma.it/onair, che poi si dice on air, che c'è anche Adua che in Inghilterra per ora si starà mettendo le mani nei capelli sentendo la mia pronuncia particolarmente fastidiosa. Mi dispiace Adua, spero che mi potrai perdonare. Quindi Giulia, vai a guardare il mio profilo Twitter e vedrai il link al video, che è una cosa davvero allucinante. Ma c'è Raz De Gun qua, chiamato Cazzo The Gun, che è veramente fantastico. No, la cosa bella, perché dice: perché cambiano le mie magliette, le mie vestite in ogni inquadratura. Ammazzo famiglia, spacco bottiglie, la mistero de Aliani si infittisce. Ai. Esiste vita in altri pianeta? Esisti, saranno loro alieni buoni o malvagia? Questo che penso siano frasi reali, sì, immagino, sì. Davvero, è davvero pessimo. E poi non so quando io ero più magro, ovvero 1000 anni fa, quando mi era cominciato a spuntare la barba con i capelli lunghi, qualcuno, la cugina di Angela, mi aveva detto che assomigliava a Raz De Gun. E penso ma sia non è vero. Un insulto gravissimo. Pensate che Raz De Gun è l'unico individuo che è riuscito a farsi espellere dall'ordine dei giornalisti pur non avendone mai fatto parte. Questa è bellissima. Nessuno ha mai chiesto a The Gun per quale ragione non bevesse Jägermeister. Nel famoso spot lui ha semplicemente cominciato a sclerare da solo. Ah, vero, diceva perché sono fatti miei, forse era questo. Sì, sì, uno spot, diciamo, ha iniziato a sclerare che non solo. Si capisce, come tutti gli spot, diciamo, degli alcolici. Lo ha reso famoso e gli ha permesso di coricarsi assieme a Paola Barale, che adesso è un, diciamo, un pallone di Botox, immagino. Non è più la Paola Barale di Botulino. Non è più la Paola Barale che aveva Montempo. Fa il botulino, insomma. Anche ai cani che ha, perché ha mille, sì, mila cani. Mila diceva il grande ingegnere cane che io amo. Inoltre, un'altra curiosità su Raz De Gun è che lui mangia le arance con la buccia. Non si sa il perché. Ed era di come premi e riconoscimenti. Qui abbiamo che è stato capoclasse alle medie. E vincitore del concorso Vinci un viaggio a Disneyland Paris del Kinder Bueno. Sono dei riconoscimenti fantastici. C'è gente che è tipo cavaliere della Repubblica, cavaliere sott'ordine di sto cosa. Io parto per Parigi, io vare. A Vare a Pareggio. Questo che sembra più riberese. Vare a Pareggio, però. A Pareggio, appunto. E noi a Riberato, sai, quando mangiamo arance ca tutta a buccia. Sì, ma credo proprio che lo facciano. Stavo cercando una canzone introducendo. Eccola qua, visto che bello. Stavo dicendo, la frase che diceva pure era: spacco bottiglie, ammazzo famiglia. È una famosissima frase presa da un gruppo Facebook che era parlava di un individuo rumeno. Romeno, non è rumeno, Dimitru, rumeno siciliano, Dimitru. Era Dimitru, ed era, diciamo, la standardizzazione della persona rumena, che forse l'hanno cancellata più volte perché l'hanno accusato di razzismo. Era divertente anche se davvero un pochettino pesante per gente fastidiosa che non accetta, diciamo, certi tipi di scherzi alla non-ciclopedia. Noi ovviamente non siamo razzisti, vi mandiamo questo pezzo che parla proprio di questo. Vediamo che parte. È bello, guarda, senti, finalmente riesco a sentire pure i bassi. Nelle mie cuffiette non si sente. Questo qui è il più bel beat, penso, dell'universo. Nessuna razza, caparezza.

Merda e Maria De Filippo, che saranno famosi. Il triste saranno famosi. Ah, scusate, volevo salutare Rock Roby, che ci ascolta da casa di Giulia. Bazinga, Rock Roby. Forse la prima volta che ci ascolti. Non mancare più all'appello, ora che sei, perché sennò la tua macchina potrebbe autocombustionarsi, come vuole dire. Autocombustionarsi, sì. E noi non saremo responsabili. I termini adatti sul radiosisma. Diamo un nome alle cose. Stavo parlando di Emma Marrone, del tizio, quello là. Il tizio, insomma. Che cosa succede? Questo qui durante Sanremo conosce Belen Rodriguez, che è già un gran... Chissà cosa hanno fatto dietro le quinte. Non lo so, però io immagino, insomma. Ma hai visto che abnorme coso che ha il morosetto della Marrone? Oddio. Qualcuno. Mi... Che è donna, quindi state tranquilli. Non è qualcuna. Qualcuna, di cui non faccio nome, Maria, Aurora, mi ha detto, mi ha fatto notare che probabilmente Belen Rodriguez ha preferito questo tizio perché ha un abnorme qualcosa, insomma. Non so se questo è vero, non lo voglio neanche sapere. Quindi evidentemente Fabrizio Corona ora non era molto, diciamo, dotato. Questo ci dispiace, perché è un siciliano e non voterà alto, per Rocco Siffredi. Portava in alto la bandiera dei siciliani, la bandiera Fabrizio, proprio in tutti i sensi. Fabrizio Corona era un grande esempio. Quando tu dici Sicilia, era proprio, dici che è morto. Sì, è morto. È un grande esempio tuttora, è un grande esempio della cultura siciliana. Sì, io quando tu dici Sicilia, non è che dici Sciascia Pirandello, dici Fabrizio Corona, soprattutto per le sue pubblicazioni, diciamo, per le grandi riviste che cosa riguardano la scienza. Dico, sì. a parte lo scherzo, la cosa scioccante di cui volevo accennare qui non è tanto il fatto che di per sé che Belen si sia messa col più giovane, anche se è super dotata, gli ha lasciato Emma Mischina, Ghide Ghiangi, eccetera eccetera, non è questo. Il problema è perché nei telegiornali nazionali, sui giornali, parlano di Belen Rodriguez che se la fa con un tizio della mia età, che ha lasciato un'altra tizia alla mia età per lei? Ma che cacchio gliene frega la gente? Cioè, siamo in un periodo in cui stiamo morendo di fame, siamo sul classate alle tasse, c'è crisi. La cosa scioccante è che la gente, cioè, si interessa. Perché se pubblicano vuol dire che vendono, no? E quindi vuol dire che la gente interessa più le poppe di Belen Rodriguez e l'affare enorme di Stefano, amico, di Stefano De Ma. No, non lo posso leggere perché è un link. Il pacco enorme di Stefano, insomma. E piuttosto che interessarsi di come uscire da questo baratro verso il quale ci stiamo cacciando sempre di più. E parlando di cazzate, come stiamo facendo noi. Esatto. Almeno parliamo di cazzate, però parliamo di cazzate con rigore. Con stile. Gabriele, hai una pagina aperta e ci sono pure due belle bocce. Una botta de grazia, Belen racconta di come è diventata famosa cantando Pararala Bamba in uno spot TV. Sa cantare e sa ballare. Un bugiardo su Belen Rodriguez. È figlia di Chavez, Berlusconi su Belen Rodriguez. Maria Belandi Rodriguez Zozza, ma se promette di farle fare carriera puoi chiamarla semplicemente Belen, è nata a Buenas Figas il 20 settembre 1984, è una naufraga argentina venuta qui in Italia per portare pace, serenità e anche qualche altra cosa. È da notare che questo anche qualche altra cosa è blu, è un link, e se ci vai sopra con il cursore ti appare la scritta fica. Comunque, nata dal napoletano Gigin o Perechius e da sua moglie Gloria e Stefan, nessuna parentela, cresce fra le piantagioni di marijuana dei suoi genitori e a furia di stare in mezzo a tutta quell'erba finisce per fumarsi anche il cervello. Un fatto che spiega molte cose. Nella sua breve carriera ha dimostrato di essere una persona molto disponibile, infatti è più facile che lei te la dia per soldi che impari la tabellina del 5. Abbiamo qui alcuni motivi, un elenco dei motivi cui non vale la pena averla come fidanzata. 1. Non ci pensa due volte a mettere le corna. 2. È troppo facile. 3 è consumata, come dimostriamo le sue, come dimostrano le sue evidenti gambe storte. 4 sa prosciugare bene le carte di credito. 5 con tutte quelle apparizioni televisive guadagnerà più del suo partner. 6 oggi o domani non la vedrai più in televisione. Sì, fonti chiare: Eder Parisi, Cannella, Idia Jespica, Francesca Lodo. Poi ha una terza di seno. Sì, non è un problema, ma sono di plastica. A questo punto se le poteva fare anche più grandi. Ma questo si è lo pensano tutti forse. Sì, sì, si è fatta vedere nuda in un calendario. Adesso che c'è di divertente vedere qualcosa a cui tutti hanno partecipato nel vederla. Poi ha dei denti più grossi dell'intera faccia. E poi ci sono dei motivi che, per cui vale la pena di averla come fidanzata. Non c'è bisogno di corteggiarla, basta che la paghi per soddisfare i tuoi desideri. Dice le cose in faccia, come faccia intendo il volto, sia chiaro. È sicuramente meglio di Anna Laura Ribas. Indossa sempre biancheria sexy e tra gli sponsor, le partecipazioni ai programmi televisivi, gli inviti alle sagre di paese e altro, guadagna parecchi soldini. Succhia più lei che la macchina che fa un chilometro con un litro. Giusto per fare già un motivo più grande che quello che ha fatto appunto quel ragazzo, giusto per fare un torto a Fabrizio Corona, vale la pena di averla come fidanzata. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai, grazie, grazie mille, enciclopedia. Ci illumini sempre. Giovanni Provenzano, nostro ascoltatore Giovo93 su Twitter, followatelo, mi ha linkato una foto di Palermitano per sempre su Facebook. E c'è Belen che dice a Maria De Filippi: ma perché se la prendono tutti con me, Maria? E Maria gli risponde in palermitano: perché sei una polla. Ovvero sarebbe traslitterato sarebbe: perché tu sei una meretrice. Diciamo, è una cosa scioccante. Appena voglio un link, mi dicono Rosario, voglio un link da inserire nell'Android per la radio. Praticamente l'Android per la radio non funge. Allora, mi dicono che il link per far funzionare la radio per Android non funziona. Ora ne do un altro. Ora te ne do un altro. Dice radio non trovata. Ora aspetta, durante la canzone te ne linko un altro. Il link lo metterò anche sul portale questo fine settimana che sono qui in paese. Oh, le campane, che bello. Bellissimo. Questo fine settimana sono in paese, dovrò lavorare un po' al sito, visto che ho finito gli esami da poco. Insomma, vedremo di sistemare anche questo piccolo problema con Android. E poi non mi ricorderà Windows Mobile. Esiste gente che ha Windows Mobile, io non ci credevo. Tra l'altro anche un nostro ascoltatore, credo che Marco Meli abbia... Io ho Windows Mobile. Anche come tu abbi Windows Mobile. Oh, Nokia Lumia, che è bellissimo. Bellissimo questo Nokia, sì. Dobbiamo mandare una canzone per Anna Love My Cat, che ci ascolta dall'inizio e se la merita. Anna Love My Cat, questa è Tutta per te. Bentornati. Mancava da tanto. Beh. Insomma, mi chiedevano il titolo della canzone, è Load e Coldplay. Sì, Load e Coldplay. Comunque, Adua ci diceva, Adua l'unico modo che ha di comunicare con noi è la bacheca del programma nostro. Mettetemi piace. facebook.com/bazingaradiosisma. Mettetemi piace, sono messaggi subliminali. Insomma, diceva Adua, Coldplay Forever, visti e goduti il 10 dicembre scorso all'O2 Arenas. In London, ovviamente questa è la mia pronuncia meravigliosa, wow. Però Adua, lo so, e lei sarà la mia professoressa quando andrò a trovare in Inghilterra per tentare fortuna dopo la laurea. Insomma, che non si sa, comunque siete tutti invitati alla mia laurea, ovviamente così tutti mi portate un regalo. Gianji, I love you, mi dice Maria Neve Rancella, sarebbe la sorella di Anna Love My Cat, se non sbaglio, questo, e forse ci sta ascoltando pure lei. Poi non ho capito, noi qui, dice Gianluigi Cioffi, sull'affaire Belen, sull'affaire francese Belen, diremo se sì che è francese, no c'è cis e che cacchio vuoi dire, compadre, me lo devi dire in palermitano. Gianluigi, dici cosa vuol dire questo c'è cis, se lo dico bene, o se sis, come cazzo si dice. Insomma, fateci sapere cosa vuol dire. Ah, tranquillo. Mi diceva il mio collega Rosario, che ci sta ascoltando, comunque ti saluta, dice che ha il telefonino scarico perché stava ascoltando il programma, quindi se vuoi andare a dormire, compaloso, dopo una giornata come quella che abbiamo avuto oggi a controlli automatici, immagino che mi senti, lo so, comunque dico, per questa giornata puoi andare a riposare, spegni il telefonino e tranquillo, non mi offendo, però non sono responsabile di autocombustione dei tuoi beni mobili e immobili. Un altro mi piace, abbiamo ricevuto un altro mi piace ed è Ivan, che ovviamente sentendo parlare della sua ragazza inconsciamente fischiavano le orecchie e subito si è connesso. Ha detto mamma così dai, ma andiamo su Bazinga. Andiamo dai. Su Bazinga, gli è venuto così, abbiamo mandato pure a lui dei messaggi, diciamo così, subliminali, ma di questo ne parleremo mettimi dopo. Mettimi piace, forse lui l'ha già messo, il mio collega invece non l'ha messo, non può perché il telefonino mettimi scarica. Piace e fai mettere mi piace alla lista Radio Sisma, vota e fai votare Radio Sisma, direbbero qua in questo video con questa pronuncia, sì. Perché non si dice Sisma ma si dice Sisma, dalle nostre Sisma qua. Radio Sisma, Radio Sisma, vota e fai votare Radio Sisma. Il nostro, il nostro accento adesso siciliano è davvero pesante. Molto pesante. Il margheritese. Il margheritese medio è pesantissimo. Comunque, un altro argomento che ho in scaletta qua sotto il microfono è una cosa perché bellissima. Stai picchiando picchiavo quel perché, foglio, non, perché non lo vedevo. È siccome, nervoso. No, siccome appunto gli occhi verso fuori cercavo il foglio e non lo trovavo, adesso l'ho trovato. La piazza che prima era gremita. Era gremita, adesso è piena di camion. Non so per quello scuro motivo. Non so cosa sta. Si dice camion o camion? Camion credo sia più siciliano. A Santa Rita si dice i camion. Le camion. I cambia. E ha commentato: l'avevo messo mi piace, quindi ci sta ascoltando anche lui da Android. Quindi tu mi comunichi che da Android funziona quindi la radio. Vabbè, fai mettere mi piace. Fai allora. Mettere mi piace. Non c'è niente di male, guarda. Questa cosa dice: minchia, ma io ti sento giusto un po', dice Rosario. Va benissimo. Siamo a conta 126. Stavo dicendo un'altra cosa. Io ieri notte, come ogni notte prima degli esami, ne ho avute notte parecchie dal quinto anno adesso, dal quinto anno di liceo adesso. Non riuscivo a dormire. Allora ho acceso la TV a circa mezzanotte e ho visto una cosa obbrobriosa. Per usare un termine molto figo o chic, qualsivoglia. Insomma. Ed era proprio questo ma non è uno show, neanche un varietà, questa stronzata, l'unica cosa che ti viene, ed è il programma Magicland del mago Casanova. E ci sono pure i fichi d'India. Ci sono i fichi d'India e sono ancora più tristi del solito. A me i fichi d'India non mi hanno mai fatto ridere. Ma mai, proprio tipo, anche all'inizio quando facevano Zelig, se non sbaglio, qualche altro programma. Sì, l'hanno, il Colorado Caffè Live. Poi facevano Colorado, quello successivamente, ma non mi hanno mai fatto ridere, sono di una tristezza spaventosa, anche se tu una volta hai parlato con quello con la testa ammaccata. Non so chi è. C'è qualcuno che è entrato. È entrato dove c'è l'acquario e balla come un pazzo. No, venite ragazzi. Che è Nicola Ganci. Continuiamo ad oltranza. Nicola Ganci e Rosario Scaturro. Vedo che sei contento, compa. Perché? Raccontaci. Raccontaci perché questa hanno contentezza. Hanno aperto venite qua. Che ragazze, compa. Qui vedo solo Domenico e Rosario. Il trio Ciolladoro. Il trio Ciolladoro. No. Questa la notte, questo qui è il loro regno. Sono le loro porte della percezione. La notte, questo qui è il loro regno, ovviamente. Sì. Sono il trio Ciolladoro. Sono appena arrivati. Da come balla e saltella mi ricorda vagamente Angelo Duro. Vagamente un carnevale. Oppure io sabato scorso. Stanno insomma. Ballando senza musica. Questo mette un po' di ansia e lascia intendere che cosa hanno fatto prima di venire qui. Non voglio saperlo, va bene. Credo sia arrivato il momento di mettere una canzone. No, prima dovevamo parlare del mago Casanova, che tu hai la biografia, ragazzi, aperta, che è una cosa meravigliosa. Magic Land, ragazzi, è il mago Casanova. Il mago Casanova. Harry Potter è più credibile. Qualunque malcapitato dopo una magia in diretta TV dell'almeno prestidigitatore. Antonio Casanova, mago, conduttore televisivo e incapace riconosciuto, è uno dei maggiori esponenti della corrente pressappochistica nella televisione italiana. Antonio Casanova nacque il 22 ottobre 1490 da un mazzo di carte, figlio illegittimo di una donna di picche, la quale era sposata con il re di quadre e un fante di cuori. Fin dalla tenerissima età di asso, intrattenne molti nobili dell'epoca in deliziosi spettacolini, ove il suo numero più famoso era far spruzzare sangue dagli occhi di un coniglio bianco. Faceva spesso confusione tra il Kama Sutra e i libri di magia. Il risultato? Estraeva il coniglio dal cappello in 52 posizioni diverse. Tra le sue invenzioni, le maggiori che ricordiamo, appunto la maggiore ricordiamo, è che è riconosciuto soprattutto per l'invenzione del treno a levitazione magnetico. Però l'invenzione del treno, che l'avrebbe dovuto arricchire, gli fu però rubata dai giapponesi, e quindi per questo motivo non ottenne il premio Nobel, ma rimase noto solo per alcuni spettacoli. Lo sai qual è la cosa scioccante del programma di ieri? Che cioè, cosa? Oltre al fatto che il programma di per sé faceva schifo, i trucchi che lui faceva erano, ma tipo, non so quanto falsi. Cioè, falsi come una moneta da 3 euro. Questo tizio prende una persona. C'è una persona dal pubblico che vuole venire. Alcune subito. Io! E già sul palco. Tipo, sì, una cosa allucinante. Caso. E gli fa: tocca questa bottiglia. La bottiglia si chiama. No, prima gli dice: prendi una moneta da 2 euro. Scrivici il tuo nome. Io la prendo in mano. Insomma, lui la fa scomparire. Questo che è un trucco che sanno fare tutti. Questa bottiglia di acqua la mette tipo. Ci passa la mano. La fa scomparire dentro al coniglio. Si congela. La spacca. Spacca il ghiaccio. E dentro c'è la moneta a 2 euro. Cioè, se non è falso questo. Oppure faceva comparire dei biglietti in mano a 20 persone del pubblico a caso. Che sicuramente erano, diciamo, suoi complici. Era una cosa davvero orribile. Un esempio proprio di televisione spazzatura. Però la cosa bella, come dicevo prima, è il fatto della social TV, ovvero se tu guardi un programma stupido come questo e lo segui guardando i commenti su Twitter, ne parli su Twitter e ti fai 2 risate. A proposito, ho dimenticato una delle frasi più belle che ho letto la settimana scorsa, ed era questa. Si è detto che, a proposito di Emma Marrone e Belen, no? Che Emma Marrone avesse bruciato i vestiti del ragazzo. E c'era uno su Twitter che ha scritto: fantastico. Io per scoparmi Belen Rodriguez, oltre ai vestiti, mi sarei fatto bruciare pure la macchina. È come dargli torto, insomma, a questo ragazzo. E noi vi lasciamo con questa bellissima canzone e ci ritroviamo tra qualche minuto. Non tentate di estrarre un cappello da un coniglio, il roditore può non gradire. Like this. perché c'è questo pezzo sotto? No, ci stava ripartendo di nuovo la canzone di prima. Non ci voleva per nulla. Insomma, stavo dicendo mentre qua i microfoni erano spenti, stavo parlando. Tu hai detto a Ivan di pubblicizzare, no? E lui ha scritto: ascolta e fa ascoltare Bazinga su Radio Sisma. Ah, fantastico. Mettete mi piace sulla pagina. Sarebbe tipo vota Antonio. Quindi, grazie mille. Grandissimo. Grazie Ivan, grazie mille. Intanto c'è Gianluigi Cioffi che ci dice: la pronuncia corretta è quella napoletana, cioè Cecis, di quel discorso di prima. Ah, Cecis, Cecis, sì. Sarebbe ci hai ucciso. Ci hanno ucciso la salute con questa storia. Ah, Cecis, perfetto. Si sente a scatti, mi dicono, quindi potrebbe essere un problema probabilmente tuo, compa, quindi prova ad aggiornare la pagina, premi F5 e riprova, controlleremo. Oppure evita di fare su e giù col volume. Esatto, evita di fare su e giù col volume, oppure potresti evitare di scaricare porno mentre ascolti Bazinga. Fallo ora, tanto tra un po' chiudiamo, quindi stai tranquillo e fallo. Un'altra cosa di cui avevo voglia di parlare con voi era una cosa che mi ha... grosso modo segnato in anni passati, perché mi sono fatto una marea di risate per quanto questa cosa fosse a mio avviso stupida, ed è il fatto dei messaggi subliminali. Ah, prima di tutto dovremmo salutare David qualcosa, che è un nostro grandissimo ascoltatore, ci segue proprio dagli inizi, da Wikipedia. Dice: aspetta, finisco la canzone e vi lascio, dovrei alzarmi tra qualcosa come 6 ore e mezza. Poveraccio, ti capisco, ma io ho un sonno e sono sveglio da non so qua dalle 6 di stamattina, quindi tra un po' saranno 24 ore di sveglia ininterrotte, di sveglia. Ho sonno, sì. Ora non si sente più, mi dicono, vedremo di sistemare, quindi stai tranquillo. Domè, tu potresti smettere di scaricare porno, quindi smettila. Forse la connessione è rallentata davvero un casino, vedremo di sistemare. Stavo dicendo, un'altra cosa di cui volevamo parlare è questa cosa che mi ha segnato, ovvero... che mi ha segnato perché è stupida, secondo me. Ora vediamo. Ci sono forse altri due computer connessi? Sì. Ora vediamo di risolvere. Insomma, ed è i messaggi su... Cosa sono i messaggi subliminali, Gabriele? C'è lì aperto messaggi subliminali. Ah, i messaggi subliminali sono praticamente... Metti mi piace a Bazinga. Messaggi subliminali mai sentiti nominare, dice Walt Disney fischiettando allegramente, che lui è, diciamo, un fautore dei messaggi subliminali nei suoi cartoni. A cura dell'onnipotente centro culturale San Giorgio, non ciclopedia declina ogni responsabilità da eventuali effetti collaterali, qua ci dice, quella conversione al satanismo, dice. I messaggi subliminali sono il male, uccidi tuo nonno. Il mondo intero è controllato dall'oscuro regime di mercato che impone sex. La sodomizzazione mediante persuasione ipnotica per colpa di essi sono tante le più grandi sciagure dell'umanità, come il comunismo, l'islam, il diluvio universale e l'omosessualità. Il buon Dio auspica che tu sfugga alla sciagura dilagante del pianeta, che infatti si autodistruggerà per volere dei messaggi subliminali fra pochi giorni. I messaggi subliminali controllano il mondo intero e lo schiavizzano fin dalla nascita dell'uomo. Hai ucciso tuo nonno? Il pianeta infatti è sottoposto fin dall'antichità dal loro potere malvagio e propagandatore di una cultura estremico massonico Satan Duran Duran. Convertitevi all'Islam e uccidete gli occidentali. Molti ora dicono che in realtà il subliminale è stata solo una mera propaganda. Ascolta, è finanziata da noi del satanismo, beniamato onnipotente centro culturale. Invece coloro che lo affermano sono solo infedeli che cercano di oscurare la verità. Vediamo noi salvatori, zucchero, dell'umanità, ove si celano i principali prodotti del regime commerciale. Pubblicità e il burdello di Toma. C'è scritto qua, è un burdello. C'è scritto vero così. Sì, qualsiasi pubblicità è sottoposta al trattamento subliminale del regime massonico. Per esempio la pubblicità della frutta. Tuo nonno deve morire. Avete visto quando vengono mostrate le banane Chiquita? Ebbene sì, si tratta di un chiarissimo messaggio subliminale di carattere pornografico. Il frutto in questione ha un'inequivocabile forma fallica. E ciò vale anche per i cetrioli. Essendo le banane un frutto della natura e non dell'uomo, alcune persone che non hanno visto la luce potrebbero pensare che si tratti di un caso. Invece no, Satana in persona, nella notte dei tempi, e anche tua nonna, ha corrotto al subliminale l'Homo sapiens. Bellissimo. Quindi questa spiegazione quantomeno simpatica di che cos'è un messaggio subliminale. Ora, la cosa che mi dava fastidio a me è che dicessero che molte persone parlavano malissimo dei classici della Disney, dicendo che la Disney, in un certo qual modo, metteva all'interno delle teste dei bambini che guardavano i loro cartoni animati roba antisemita, ovvero che quindi antisemita, sappiamo tutti che di cosa si tratta, è inutile che lo definisco. E questo qui la trovo alquanto stupido, perché non credo proprio che se mi guardo Bambi poi ho voglia di diventare un Hitler piccolo, di odiare, oppure che odio spontaneamente le persone di diversa, diciamo, inclinazione religiosa. Poi non lo so. Ah, un'altra cosa scioccante che avevo sentito era questo qui, del fatto che nella canzone Another One Bite the Dust dei Queen, ascoltato al contrario, c'era una parte che era quella là dove rallentava la canzone per poi di smoke marijuana. Dicono che dice is fun to smoke marijuana, ovvero è divertente fumare marijuana. Sentiamolo al contrario, vediamo se ci arriviamo. Un saluto ad Elisa che ci ascoltava dall'inizio e non l'ho salutata, poverina, mi dispiace. Vediamo, eccola qua. Questa qui è la canzone, diciamo, a versione normale. Questa qui è la canzone al contrario. Mamma mia che ansia che mette. Cioè, la canzone... sentiamola di nuovo. Aspetta, vediamo. Lo fanno ancora più potente. It's fun to smoke marijuana. It's fun, è divertente fumare marijuana. E poi credo si dica it's funny, forse, no? Fun. It's fun sarebbe divertente. È divertimento fumare marijuana. Non lo so. Semplicemente io non credo. Cioè, solitamente il 95% delle persone non capiscono le cose neanche se gliele sbatti in faccia urlando. Mettimi piace. Immagina se lo capiscono mettendo delle parole al contrario. Le parole al contrario in una canzone. Fumate. Anche Giovo ci sta abbandonando. Dice: io domani devo svegliarmi per andare a scuola. Vorrei dire, ragazzi, che arriverò in ritardo. Tutti a letto, mamma mia. Sì, ora ti ho salutato, Elisa. Scusami se prima ti ho salutato perché pensavo che non ci ascoltassi. Quindi è un insulto alla promessa che avevi fatto precedentemente. No, per questa volta sei perdonata, perché è stata una mia mancanza. Diciamo. Allora, a parte messaggi subliminali, eccetera, io volevo mandare questa canzone che avevo mandato in una delle prime puntate di Wikipedia, e da allora in poi è rimasta mezza morta nella mia pendrive. Adesso ve la ripropongo. Ben ritornati su Bazinga. E tra l'altro è ripartito Bazinga e le campane. Sono ripartite le campane esattamente quando, che poi ce ne sono 12, quindi ascoltiamo le campane in silenzio. Questo che credo sia la undicesima, dodicesima, forse. No, questa è la dodicesima. No, questa è la dodicesima. Deciditi. Quella è la dodicesima, quindi sono è mezzanotte e un quarto. Oh. Grazie, grazie campane che ci ricordate ancora una volta questa cosa simpaticissima che ha fatto il comune aiutando, diciamo. C'è Cosimo Meli che non mi dice che ci ascolta, non so perché. Potevamo dedicarti una canzone. Ma non te la meriti. No, non è che non se la merita. Questa la dedichiamo a te perché ti ricorda GTA San Andreas. Ah, a chi? Me l'ha detto un altro, me l'ha detto anche Picchi, ha detto la colonna sonora di GTA San Andreas. Chi è che non ha squartato un po' di gente con questa, colonna sonora? È davvero scioccante, perché io aspettavo che qualcuno dicesse, l'hanno detto moltissime altre persone. Ora Giovo e Marco Meli, assieme a Domenico Red School, sono tutti compagni di scuola, e già due su tre hanno detto: io domani dovevo svegliarmi per andare a scuola, vorrei dire che arriverò in ritardo. E Marco Meli invece ha detto: fanculo alla scuola, domani sto a casa. Quindi ci stanno facendo Bazinga, compagnia fino alla fine. C'è Gianluigi Cioffi, ci dice: bravissimi in artista e Vicchio 88, veri showman di Radio Sì. Adesso la regia mi chiama dal letto. A presto. Quindi vanno a letto in molti, evidentemente. Grazie mille per l'ascolto. Speriamo di averti rallegrato un pochettino. Tu hai rallegrato noi con quelle frasi scognite in spagnolo. Con la signorin, signorin, eccetera, eccetera. Ciacis. Flavia invece dice: sono come le campane nel mio paese. Credo che le campane abbiano un suono, diciamo, internazionale. Molto simile, infatti, tra di loro. Tranne le campane dei giochi di ruolo della Nintendo, del Super Nintendo. C'era un gioco che era Chrono Trigger, che era meraviglioso. Chrono Trigger, vero, si chiama, che bellissimo. E c'era questa campana, non mi ricordo come si chiamava, che aveva un suono spettacolare. Prima o poi la troverò e la proporrò qui su Radio Sisma. Cosimo Meli, quando mi ascolti dimmelo, io ti dedico una canzone. Ci fa sempre piacere che ci ascoltano, e non quindi è vero. È il caso, diciamo, di dedicare delle canzoni. Dedichiamo questa canzone, la dedichiamo a Cosimo Meli, che non sappiamo però se ci ascolta o meno, però noi te la dedichiamo lo stesso. La lasciamo in sottofondo mentre facciamo i saluti allora. Perché sì, ragazzi, sì, ragazzi, che voi ci crediate o no, che voi ci crediate o no, sono le 00.22 e noi abbiamo cominciato questo programma alle 22.11 ed è da un bel po' che siamo qui e io quasi quasi sto facendo il compleanno da quando è che sono sveglio e la stanchezza sopraggiunge e siamo davvero davvero davvero contenti di essere tornati ancora una volta qua. E siamo contenti che voi siete lì, lì dietro, numerosi, sempre ad ascoltarci. Sempre numerosi. E siamo qui su Bazinga. Davvero ci fa, contenti. Ci fa piacere che siete sempre numerosi nonostante passino i mesi. E siamo davvero contenti di come è andata la serata. Inoltre vi volevo anticipare anche questa cosa. Questa qui è la prima serata di Bazinga che è stata registrata e sarà in onda tramite anche podcast. Anche quando noi non faremo la radio avremo le repliche. Potrete riascoltare le puntate di Bazinga sul nostro sito radiosisma.it. E non solo quelle di Bazinga, anche di tutti gli altri programmi. Tutti gli altri programmi. Insomma, non è mica vero, mi dice Flavia, ogni campana ha un suo modo di campaneggiare. Va bene Flavia, quindi campeggiare, con i nuovi termini. Campeggiare credo esista già e significa fare camping. Non credo che sia il termine adatto. Forse voleva dire campaneggiare. Campaneggiare magari è più adatto. È più figo, sì. Quindi ragazzi, noi come sempre vi salutiamo alla nostra maniera, mettendo questo meraviglioso pezzo dello zio Jimi Hendrix, Voodoo Child. Buonanotte da Bazinga. Alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Saprete quando sarà, continuando a seguirci su Radio Sisma oppure su facebook.com/Bazinga Radio Sisma. Metti mi piace. Ciao ragazzi. Bye.